America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, comincio con un paio di notizie molto interessanti, devo dire. Vladimir Putin ieri sera ha annunciato il ritiro delle forze russe dalla Siria. Si tratta di una svolta che potrebbe condurre rapidamente all'applicazione degli accordi per la stabilizzazione del paese. Vedremo le reazioni fra oggi e domani, nei prossimi giorni, e vorrei tornare su questo argomento in modo più approfondito. Intanto oggi qui in America si vota, ve l'ho raccontato già ieri, stati chiave: Ohio, Illinois, Florida, Missouri. Non voglio parlare oggi di elezioni, ne parleremo in modo approfondito domani, però voglio proporvi un audio di Hillary, perché la candidata democratica ha parlato di Matteo Renzi in funzione anti-Trump. Sentiamo. I'm having foreign leaders ask if they can endorse me to stop Donald Trump. Ecco, avete sentito Hillary, town hall meeting, Columbus, Ohio, stato chiave appunto, quando dice che alcuni leader mondiali hanno chiesto di accettare il loro sostegno per fermare Donald Trump. Sono tutti molto preoccupati, dice Hillary, qualcuno lo ha anche fatto pubblicamente, le viene chiesto chi è fra i leader alleati ad averle dato questo sostegno, e Hillary risponde: per esempio il premier italiano Matteo Renzi. Ecco, la prima volta che il nostro leader, o che comunque un leader politico italiano, interviene in modo, vi dicevo, certamente indiretto nella campagna elettorale americana. Come vi avevo anticipato, non voglio parlare di politica oggi, però questo fatto che si è parlato in qualche modo di Italia nella campagna presidenziale americana, mi dà lo spunto per parlare della nostra cultura qui in America, perché ci sono alcuni sviluppi interessanti. Sentiamo. Essere protagonisti di un mondo globalizzato offre molte più possibilità. Certo, la competitività è più grande, però anche le possibilità e le opportunità che ci vengono offerte sono maggiori. Ecco, chi mi segue avrà riconosciuto il maestro Gianandrea Noseda, che ho intervistato qualche settimana fa per raccontarvi di questa sua esperienza americana, proprio nei giorni in cui era stato nominato direttore della National Symphony Orchestra del Kennedy Center a Washington. In quel contesto avevo raccontato anche che, insomma, di direttori d'orchestra in America italiani ce ne sono altri. C'è Fabio Luisi, per esempio, che ho intervistato anche qui ai microfoni America 24, che è il direttore d'orchestra, diciamo, sostituto dietro Levin al Metropolitan Opera House. Abbiamo Nicola Luisotti a San Francisco, naturalmente il grandissimo Riccardo Muti, che è a Chicago, direttore della National Symphony Orchestra di Chicago. Ecco, perché faccio questa riflessione? Perché noi in generale tendiamo un po' a buttarci giù, insomma, siamo spesso critici verso il nostro paese, vediamo negatività, devo dire, spesso le vedo io stesso da questo osservatorio americano, che spesso su molti fronti è più avanti rispetto al nostro paese, e sottolineiamo magari un po' meno le eccellenze, diciamo magari che non sfruttiamo a fondo le nostre bellezze, la nostra cultura, che non puntiamo troppo sul turismo. Però ecco, in realtà qui negli Stati Uniti abbiamo spesso delle presenze anche nel mondo dell'arte, ci sono degli exhibit che sono dedicati a artisti italiani e alla cultura italiana. Ecco, dunque oggi voglio parlarvi un po' di quelle che sono le nostre possibilità, il nostro potenziale, le nostre sfide, le nostre difficoltà magari nel penetrare un certo mondo culturale americano. Di queste sfide, di queste nostre potenzialità, voglio parlare con Giorgio von Stratten, che è da alcuni mesi il nuovo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura qui a New York. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Intanto, se tu dovessi fare una graduatoria, so che è difficile, ma uno spaccato: siamo presenti dappertutto, un po' dappertutto nelle varie espressioni in cui si manifesta la nostra cultura, o comunque la cultura, o c'è qualcosa dove facciamo meglio? Tu dicevi la musica forse viene più naturale, ma non so, nel campo artistico? Allora, ovviamente facciamo meglio nei settori in cui non è necessaria la lingua per esprimersi, perché ovviamente, essendo la nostra una lingua molto minoritaria, tutte le volte che c'è un problema di comprensione da questo punto di vista, noi facciamo più fatica. Quindi è ovvio che musiche, arti visive, cinema, anche perché poi molto spesso ormai si gira in inglese a livello internazionale e così via, sicuramente su questo è più semplice. Però ci sono dei fenomeni, secondo me, ultimamente molto interessanti anche in settori in cui la lingua invece è fondamentale, come la letteratura. E anche in un paese come questo, dove le traduzioni di solito non hanno una grande capacità di diffusione. L'enorme successo, per esempio, di Elena Ferrante e della traduzione, soprattutto della sua tetralogia, è, secondo me, un segno molto significativo. Ecco, hai citato un esempio calzantissimo, la Ferrante, i suoi libri. Devo dire, hanno avuto più successo qua che non in Italia. Io, non so, l'altra sera ero a una cena dove c'era il critico teatrale del New York Times, c'erano vari personaggi letterari. A un certo punto hanno cominciato a parlare di questi libri come se fossero appunto una cosa, per loro una cosa straordinaria. Perché cos'è che ha fatto scattare questo meccanismo? Intanto condividi che forse è andato meglio qui che in Italia? Oppure, beh, no, è andato molto bene anche sì. In Italia. Che è andato bene qui, secondo me, la cosa più significativa dal mio punto di vista è che vedo la gente in metropolitana che la legge. E questo secondo me è molto significativo, perché non è quindi solo un successo, diciamo, di stima e di critica, ma in qualche misura proprio di vendita e di diffusione. Ecco, questi italiani che sono qui, che hanno successo in America, ma vengono percepiti come italiani o come americani? Gli americani pensano, in realtà, perché gli americani, poi quando dici cultura italiana, a parte il cibo, la moda o il design, continuano a pensare a Dante, eccetera, eccetera, perché giustamente loro non è che pensano principalmente se Noseda è italiano o no e se un pittore è italiano o no, pensano che sono i migliori e che loro li fanno venire qua perché sono i migliori. Quindi uno dei miei compiti fondamentali è fare delle cose per sottolineare che tutta una serie di persone che sono qui e che gli americani apprezzano sono italiani e sono espressione della cultura italiana, e non avrebbero quella sensibilità, quella creatività, se non fossero profondamente radicati in una cultura italiana. Per questo, fra l'altro, io non condivido per niente sta cosa dei cervelli in fuga, perché secondo me non sono cervelli in fuga, sono cervelli che si realizzano. Poi se noi in Italia gli diamo più spazio, meglio. Ma voglio dire, ormai ci si esprime a livello mondiale quando uno ha determinate capacità, e il fatto che ci siano tanti italiani dovrebbe essere un motivo d'orgoglio nostro e non di preoccupazione perché sono qui invece che a Matera. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, in presenza di una persona che ha guidato il maggio musicale, Giorgio, chiedo a te di lanciare la nostra canzone. Che cosa ti ha ispirato la nostra chiacchierata? Beh, per voler essere ottimisti, appunto, e dire che non siamo ancora arrivati al capolinea come paese, come cultura, sì. Potremmo sentire di Bob Dylan Not Dark Yet. Not Dark Yet, Bob Dylan. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.